Cidiane Omidici, buongiorno. A c'è la torre di controllo in ascolto, gamba. Attenzione Luca, stiamo ascoltando qua questa piccola stazioncina, cambio Luca Flipper, stiamo ascoltando qua, cambio, attento Luca, Luca Flipper. Attento Beppa, attenzione Beppa, se va succedendo qua, cambio, attento Beppa, Beppa, attenzione Tone, Tone Squalo, Tone. Attenzione canale 10, attento Peppa, attento Peppa, chi è, Franco, Franco, Franco, Franco, chi si è, Franco di Sos, Franco di Sos, chi è avanti, alle porti cazzo. Attenzione Franco, Franco di Sosso. Prova, prova di microfono. Prova, prova, prova di microfono, prova. Attenzione Tore, Tore, se va switchando qua, cambio. Attento Tore. Attento, Tore, Tore, Tore. Capo? Capo di roccia, no. Prova radio, prova radio, prova radio. Test radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test radio, test radio, test radio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova radio, prova radio. Prova, prova radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, prova radio, test, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola. Attenzione, Tore, Tore Squalo, attenzione, Tore Squalo. Se va scucciando qua. Canale 10, cambio. Attento, Tore. Tore, Tore Squalo. Tore, sì sì, Tore. Attento, Tore. Attenzione, Tore, Tore, Tore. Tore, sì sì. Tore. Io voglio sapere chi sei, il nome. Ma poi il cognome voi? Interessa il cognome. Vabbè, punti che sono qua. Ho capito. Ho detto punti che sono qua. Ah, punti che sì, ho capito. E non ti avevo riconosciuto. Con questo baracchino, con la 48. Non mi avevi riconosciuto. Assolutamente no. Tu mi hai chiamato Roberto. Ti ho chiamato Roberto io. Adesso. Qualcuno mi ha chiamato Roberto, allora non eri tu, forse c'era Manuele che stava chiamando, ma tu eri poco fa. No. Allora, ma Gico voleva qualche controllo, non so, vabbè. No, ti avevo riconosciuto, Luca. Sto usando l'Alan 48 con il mio BP5, no? Tutte strane le voci sono, cazzo. Come fai a riconoscere Luca, Lubetto di Domonti? Buongiorno. Sì, vabbè, dove? Metti su nei giardini, ciao fa. Ciao Luca, ciao Claudio. Chi è? Abbiamo una stella questa, cordia di tratto, la è per me, scusa. Saluti, baci abbracci. Ciao Claudio. Ciao, chi è? Ciao Manuele, sono qua. Hai sentito? Allora eri tu poco fa, stavi chiamando. Beh, stavo chiamando attore. Evidentemente non c'è ancora. Comunque riprendete pure, dai. E vabbè, comunque io non sto riconoscendo le voci. Con questo baracchino è un casino. Vabbè. A che radio sto usando, Ocla? Sono in 48 con la mia BP5. Cazzo, una bomba, Radio invece è tutta una bomba. No, va bene. Buona modulazione. Bisogna usare gli omologati. E quindi usiamo gli omologati. Anche se questo non è norma CEA, ma manco barugazzo, me la futti comunque. Almeno un baracchino omologato. Sì, bene, mi ascolti, Cla. Sì, sul più del 9. Sì, ok, dai. No, mi interessa una modulazione, se va bene. Ottimo, Manuel, alla grande. Ok, dai, riprendete pure. Va bene. Fabio Master, ma tu conosci un certo Stefano Sanna? Stefano Sanna? Stefano ne conosco. Boh, magari il cognome non mi dice niente, ma... Stefano Principe, non l'ho conosciuto. Ah, sì, ma l'ho conosciuto ultimamente. In verticale l'ho conosciuto ultimamente, tutta la settimana scorsa. L'avrei conosciuto a Olbia? Negativo, l'ho conosciuto qua, stasera, via di passaggio. Ci siamo finiti per caso, ci siamo incrociati, ci siamo fatto un caffè veloce, per la sera, se ci grattiamo a tutti, almeno ci riconosciamo. Ho capito, quindi l'hai conosciuto da poco, non lo conoscevi da prima? No, negativo. Anni fa abbiamo parlato, non mi era nuovo, quando poi ultimamente l'ho risentito. E poi mi hanno detto che comunque, mi avevano detto che comunque giro a Perugia, allora come l'ho sentito, da senti un po', ma com'è sta cosa? Siccome a Perugia non sentivo nessuno, io sulla 27, mi ha detto guarda che ultimamente c'è un gruppetto, quando passi a Perugia chiamami che magari entri in frequenza e faccio sentire una cosa. Ho capito, va bene. Ma tu ci passi spesso a Perugia, ho sentito varie volte, devo andare a Perugia, sono tornato da Perugia. Perciò ci fai qualche giro. Ma io tocco e fugo, non è che rimango molto. Ci ho lavorato tanti anni e Olbia mi sta proprio sul cazzo a me, Olbia. Mamma, non so a Terni. Una città sporca, fiaggosa, disastrosa nel traffico. No, non mi è mai piaciuta. Quindi entro e esco proprio, vabbè, adesso non ci sto più andando perché mio cognato aveva dei lavori lì e quindi li ha finiti, adesso non ci sto più andando. Però dovendo andare ad Olbia proprio entro e esco, non è una città che mi piace né girare né starci molto. No, vabbè, ci sono anche aspetti positivi, poi dipende da come la prendi, dipende dal giro che hai, dipende da quello che ci devi fare. Io ho vissuto per 3 anni a Roma, che è una città bellissima, però stavo studiando duro, non me la sono voluta, capito? Tutt'altro che romano sono diventato. Tu puoi andare a Roma, puoi andare dove vuoi, ma Olbia a me tu non mi devi proprio insegnare niente perché io ho fatto per 10 anni quasi fontaniere e quindi so perfettamente vie, vicoli, case, casette in Canada e senza essere neanche in Canada. La conosco tutta Olbia, anche il centro storico, tutta dall'A alla Z, con tutte le vie e i numeri civici ed è una città che a me non è mai piaciuta, è sporca e fiaggosa. Vabbè, io ci vivo da 20 anni e ho trovato i miei spazi. Ognuno, ti ripeto, a seconda di dove sei vita. Ho delle belle persone, Olbia, ho 2 case, ho lavorato tanto entrando nelle case della gente. Cioè, è vero, ci sono molte cose che non vanno, però se sai scegliere, poi alla fine riesci a vivere ovunque, perché il mondo è pieno di stronzi, ma qualcuno ci rimane buono, capito? Non so, io non è che abbia grandi conoscenze dei cittadini olbici. Io la giravo tutta e ti posso dire che a me non è mai piaciuta, capito? Piaceva molto di più Golf Arancia, Zacchena, però tutta quella zona, ma Olbia proprio città a me non mi piace, è una città sporca, lurida, brutta, non, per carità, e di gente truffaldina, un bel. Tu considera che io quando abbiamo fatto il censimento che ero a Olbia ed ero alle utenze, ho staccato quasi 1500 utenze abusive, fate un conto. Ah, per quello sì, sarebbe di scaltri, Senta che io, da lavoratore autonomo, devo anche riuscire a farmi pagare. Immagina il casino. Infatti c'è molta gente che fa un bel di lusso, ci dà un bel di aria e poi non c'è un cazzo, capito? C'è solo debiti. Questo è quello che ho riscontrato ad Olbia. E poi venivano a piangere quando le staccavi l'acqua, capito? Però va viene la Mercedes, la moto e tante cose belle. Vabbè, dai, rimango in ascolto, sto facendo cosa, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao, ciao, fra. Vediamo, ci è arrivato Luca. Luca! Luca, intanto, ciao, ciao. Nome, cognome, quello che tu stai, sei andato. Che sai cosa stai facendo tu, Daniela, per il tanto? Non ti metti un box? No, no, ho messo a lavare le scarpe in lavatrice fa. Me l'ho dimenticato, ma ti ho levate e me le ho stesse. Mettate in lavatrice e poi andiamo male, ci rovinano troppo. Che lavatrice c'hai? Indesit. Anche qui a Staffeggio non è, ci lasciamo perdere. È meglio di no. Ecco come si escono le scarpe. Ma sono uscite pulite a voi. Pulite sì, però le rovina la lavatrice. Quando le rovina mi compagno a tubaccio. Mamma mia, già fai parte anche tu di quelli del consumismo lì. Da oggi il grande risparmiatore italiano. Se parte centurio, vedi tu. E vedi che sei buttato su di allora, non le metti la lavatrice. Ti ammollo con un po' di detentivo per la lavatrice. Le spiega per la pena. Le lasci una mezz'oretta così, poi le lasci un'altra mezz'oretta a sciacquare, in acqua pulita, poi le sgoccio di schiacciandole appena sbrassandole troppo, le appendi da qualche parte e il giorno dopo sono asciutte. Ma ti durano 10 volte tanto, mi Luca. Tanto io oggi ne uso un paio, però domani ne uso un altro paio, capito? Mica tengo sempre le stesse e mi durano lo stesso. Dunque sappiamo che c'è la moda, cambiando il casco tipo una donna, così è. No, come una donna, però. E questa è una cosa con cui io ho fatto. Adesso oggi ne ho un altro paio, io dicevo quelle, poi domani metto un altro paio. Usai sempre quelle stesse scarpe. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, uso sempre le stesse scarpe. Sì, io non lo voglio prendere per il culo. Questo qua è un po' troppo, è il mio apparato, lo ti dico, di quanti ci avevano messo mano e nessuno l'ha pulita, perciò saldatissima da lì, ti puoi immaginare come è diventata? Beh, certo. Tutta marroncina, scura, tutta fissata. Poi dice, no, la parete funziona bene, che... qualche volta mi slitta di frequenza. Mappa. Come mai? Se non vedi neanche le saldature, la mettete sopra. Tutta quella colla che ci mettono, nessuno l'ha mai tolta. Anzi, c'è una saldatura sopra, l'hanno sciolta, che picchiolata. Cioè, a fianco ci passano 9 volt, lì ce ne passano 2, secondo te non succede qualcosa. Cosa stai mangiando di bello? Che anch'io ci ho cottito. Scusa, stavo ascoltando l'audio di WhatsApp. KK, io sono qua, pennellando. Ma come sto uscendo? Di che ti c'ho di radio? No, io intanto conosco il portante, fa... KK, perché non lo devo tenere così, guarda. Adesso lo tengo così. Vabbè, che il microfono, poverino. Quanto è abbassato? È già fatto che ci sentiamo, ti fidi. Fa, guardate, non l'hai piazzata ancora. No, negativo, non sono riuscito. Niente, non ci sono ancora riuscito. Bisogna fare l'operazione per togliere il tubo e ancora non sono riuscito a arrivarci in tempo utile. Oggi poteva essere una bella giornata, però se hai visto il cielo abbiamo cambiato idea. Grazie, questo oggi è una giornata proprio uggiosa. K, ma ogni volta che ci sono congiunti gli altri per riuscire a farlo, puntuale, doveva piovere, qua e là, casini, eccetera, poi faremo una riunione, poi si è dovuto andare via, poi insomma, cioè, ma c'è l'antenna che sta ridendo a fianco alla porta, la scala sul tetto, però nulla. E tu, Lu, sei un po' sparito in questi giorni, non ti sto sentendo da un po'. Oh, yeah. Che casino, per carità. Che casino. Domani, allora oggi, quanto è oggi? Oggi dovrebbe essere 19 maggio, giugno. Allora, maggio, levati dalle botte. Allora, domenica inizia l'estate. Luca, guarda lo smitter, quanto ti arriva questo segnale con la 48? Ehi, vabbè, cos'è che questo qua da regolare fa? Macla, 9.10, sì. No, guarda proprio quanto ti sta segnando adesso, la portante muta. 9.10. Ok, aspetta. Guarda adesso la portante muta. 9.15. Aumentato leggermente? Sì, sì. Dovrei vederlo magari attenuandoci un po'. Aspetta. Cesso, che fastidio. Quando va attenuato si sente tutto... Ma se potenzia un altro sporco, cioè. Ma qual è quello, il Typhoon? No, il 3009. Vabbè. Va bene. Aspetta un attimo. Una prova di antenne a vedere se c'è la differenza. Sì, ma fai la prova adesso che ti ha attenuato, vai. Allora, questa è un'antenna, guarda. Ok, questa è un'antenna, aspetta il commuto. Ecco qua, questa è l'altra antenna. Sì, ma con la prima antenna si sa, compressa la modulazione. Comunque fai da 9 scendi a 5. Compressa. Che compressa. Questa qua è, questa sotto l'antenna. Stazionale non ce n'è, quindi questa è la prima antenna. Ed è Santiago? Attenuato, Santiago 5. Fermo, lascia l'attenuatore. Guarda la seconda antenna. Non è esatto, io mi sto ascoltando. È compressa la radio, sembra che si è agganciato. Compressa. Anche da te, Fabio. Cambia un po' la radio, sembra che sia meno dinamica, ma compressa forse no, ma meno dinamica sì, non è la tua. Vediamo, aspetta un attimo, voglio cambiare lo spezzone, a vedere del commutatore. Sto cazzo il commutatore deve essere buono, aspetta. Allora, adesso sono diretto, anche adesso è satura. È un po' lungo. Che strano, cazzo, sarà in 48, non ho capito, c'ha 8 watt modulati 10. Così è satura, no? No, così non mi sembra. Io ho vedato c'è un'antennina. Luca, guarda a vedere se è saturo, se è segnale diverso, lasciando sempre attenuato questo secondo passaggio. Hai detto il primo era 5 e questo quant'è? Adesso sei quasi 9. E quindi questa antenna è meglio dell'altra, ma non è saturo adesso. Adesso non è saturo. È 9.10, Fabio, sì, 9.10 qua, la modulazione è perfetta. E c'ho due antenne. Ho notato una differenza di ricezione e ho detto allora c'è anche in trasmissione. No, invece è diretta senza commutatore d'antenna. Con commutatore d'antenna satura, vedi? Che cagata che. Vabbè, adesso mi aggancio diretto alla T230 della Kenwood, così non satura più, dai. Vabbè, quindi questa è meglio dell'altra, Luca? Sì, è certo. Lo sai che la c'è lo smite da regolare, ma non lo tocco, non mi apro baracchino, che non c'è più gradi, va, lo lascio così e se la dronca è luci, tanto, non mi interessa. Sai che il segnale tuo è sempre lo stesso alla fine, che arrivi sul più, però questo vuole regolato, ma non lo tocco, ma non mi apro più, oh, ma non mi senti. Ma lascia stare così, ma lo so di nafutti, del più, del meno, ma lo so di nafutti, già va bene lo stesso. Infatti. Quindi da te, Emanuele, va bene? Una bomba, sì, Sparvier. 9 più 10, la modulazione è perfetta. Va bene, va bene, trovato il compromesso, allora dai, lascio questa antenna sulla LAN 48 e l'altra invece la lascio sull'altro baracchino, dai, quello base. Va bene, va bene. No, va benissimo la radio, è bella chiara. Sì, il nome BP5 non è che sia tutto questo grande cosa, però è abbinato bene a questo 48, dai. Chiebe, chiebe. Questa invece è l'altra antenna, e questa non mi sembra sia più chiara la modulazione, però questo è l'altro baracchino. Che c'è la nostra gruppa? Questo? Siamo passati da Radio Proag a Radio Rai. Vabbè, ma anche Radio Proag non è male, va bene lo stesso. E questo è il Polmar, questo è quello base, 7000 Dix, questa è una bellissima radio, un bel vintage. Va molto bene, molto, molto, molto. Bella ricezione, risponde a tutto, 220. Questo però non è l'MB più 5, questo è il Turner più 2. Ma guarda che io ascolto anche Radio Proag con piacere, tra virgolette. Se mi dici che è bella ricezione, in modulazione è speciale. Oh, claro, c'è quel tipo che mi ha venduto il 3009 e sta vendendo un 140, che è un TS-140HF, perfetto, senza nessun problema, a 260 euro. Ah, compro, mi interessa. Non mi interessano più quelle radio, no, lascia aperte. Si può trovare anche a 250, anche a 200, ma no, non mi interessa. Compratelo, se ti piace, che è buono. Non capisco però, Fabio, cioè questa è superiore a quella dell'Alan 48, ma come timbrica, però anche l'Alan 48 va bene. Allora, io sono ancora attenuato, mi ha messo la mano nella mappolina, come ho detto Luca, mi sono allungato là, e perciò varie condizioni delle due radio che abbiamo provato poco fa. Questa mi risulta più forte, più alta, è molto più dinamica e ti sento anche roba sotto, forse probabilmente cioè sotto come ambientale, forse anche il microfono che aiuta, però sicuramente come modulatore preferisco questa, sembra molto molto aperto, capito? Quindi questo è il Polmar ed è quella che preferisci. Aspetta che commuto l'antenna e provo la LAN 48, giusto per sapere una cosa. Oh, questa invece è la LAN 48 con le MBP5, cosa cambia? Adesso sembra minore la differenza, però l'altra comunque la sento più pulita. Ma non ci sono disturbi in questa, la differenza che tu noti è dei microfoni, uno è un Turner più 2 e l'altro è un MB più 5, questo è l'MB più 5, quello di poco fa è un Turner più 2. Allora meglio l'altro, forse sarà il microfono, però la dinamica eccetera. Io credo che magari ti sposti uno dei microfoni da uno all'altro, ma per capire come funziona il modulatore sarebbe meglio, anche se io comunque a naso preferisco il vintage, veramente. Sì, vabbè, anche questo 48 è un vintage, però voglio capire, è affidabile lo stesso questa modulazione, va bene o che cosa? Sì, claro, se ti ascolto con una ragionina capisco che sei tu, arrivi pulito, perfetto, capito? Anche con una radiolina, cioè il timbro di fabbrica è rimasto quello, capito? Il timbro di fabbrica, cioè gli hai tu. Ho capito, vabbè, amplificazione ce n'è in questo, sì? Sì, sì, cioè, ma nulla da dire alla radio del 48, però, capito, l'altra è da fuori classe, sembra la radio di un apparato di un certo calibro, curato in un certo modo, eccetera, sembra la radio di quell'altro, cerca di capire a me. Ho capito, quindi questo vale sul 48, questo è il Polmar 7000 Dix con il Turner più 2 da tavolo, molto bene, vabbè, allora usiamo questa, non ci va da più. Secondo me a parità di VAT tra questo e quell'altro è difficile capire che è un apparato o l'altro, siamo andati su queste frequenze con gli apparecchi. Perché io mi ascolto in cuffie, sembrano tutte e due uguali. C'è un po' più di amplificazione qua sul Polmar, questo sicuramente, ma è il microfono che spinge rispetto all'MB più 5, più professionale questo. Però ascoltandomi diciamo che vanno bene tutte e due, dai. Sì, sì, ma ti rispetto, se questo è uno scherzo, metti nell'armadio quello che usi di solito e vuoi usare questo, a parità di VAT, nessuno se ne accorge perché l'ha preparato, secondo me. E vabbè, questo già te ne accorgi, c'ha neanche 10 VAT. 7 watt modulati 8-9. Vabbè, ma comunque non è quello il problema, l'importante è che esca bene di radio. Ma no, questo l'ho preso da Gianni Capri 2, veramente una grandissima radio. Questo è il Polma 7000DX, è simile al Zodiac 5024, però è superiore. Questo c'ha un Mickey Gain, c'ha qualchesina in più, e poi è nero, non è del colore del Turner. Va molto bene, 23 canali, ottimo, ottimo. Va bene, va bene. No, sto facendo alcune modifiche, alcune cose, quindi sicuramente sto entrando molto poco, molto meno, perché non è che abbia, non sono molto motivato in questo periodo a stare in radio. Però uso un po' questo, va bene. Vabbè, allora metto a posto qua, dai, faccio un po' di ordine. Ma cosa se ne frega, ti butti nella nicchia, tanto anche con 23 canali, io ci penso, no, l'apparecchio se lo compro, se compro un apparecchio voglio 40 canali, ma poi ci ripenso bene, dico, ma siamo sempre più o meno su 10, non siamo in tanti. Non è come un tempo che ci dovevamo spaziare anche un po' dai canali, saluti sul faccia vicenda, è trovabile la 3x più 14, la 3x più 30, capito così. Anche se non metti in moto tutta la stazione, accendi questo, ti butti quattro chiacchiere, sono solo quattro chiacchiere, cioè non è che sia chissà che cosa, poi alla fine la radio è anche bella per quello, perché un po' frivola, metti da così. Sì, vabbè, però io volte se sono argomenti che mi interessano entro, se no sto in ascolto. Sì, io già ne vai 40 canali, boh. A parte se devo usare 40 canali, c'ho il 40 e c'ho altro, ma per fare due chiacchiere questo è più che sufficiente, perché ti ripeto, ho un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, rispetto ad altri che ho, rispetto al DAC è superiore, rispetto al 48 è superiore, all'Airbex è superiore, al Ruiz è superiore, le ho provate tutte, ne ho tante, le ho provate tutte, questa è quella che mi piace di più, la modulazione, quindi va bene, va bene. E tu Manuele, l'antenna non l'hai piazzata ancora, piazza, piazza. Sì, antenna, un'antennina va giù. E un antennino mi arrivi bene qua a casa, Sì, un antennino, Un antennino di macchina. Che cazzo è un antennino di macchina? Vabbè, arrivi 9 più qua. Andare allora, allora funziona tutto bene. Alla grande, hai anche dei bei picchi positivi, no? Non c'è problema. Sì, prima ce l'avevo collegata, tipo le mani in capo. Mi avevo collegato al Moggiolo, senza far massa né nulla, e mi tendia nel Romantesi. Stamattina oggi l'ho staccata, gli ho messo un palo, di 2-3 metri, e me l'ha già attaccata la ringhiera a rete, di Lugliachino. E arrivi molto bene, Manuel. Rispetto a prima arrivi molto molto bene. Sei più di 9 qua, io sono distante da te. Già lo so dove stai. Io si può dire sono in terra. Ti verrai in terra l'antenna. Comunque rispetto a prima, quant'è che ti arrivavo prima? Il Santiago 5 mi arrivavi. Cazzo, allora un abisso, E sei sul più del 9, ti ho detto. Arrivi molto bene, sei un 9-10 praticamente, dai. Arrivi molto bene, caspita se arrivi bene, di luscio, mi sa che in campagna faccio anch'io così, invece buoni antenna, pongo una nella punta dell'albero, metto un'antenna di macchina, e la manco non ci vedi. Sì, mi pare che è la cosa di uscia. State arrivando bene. Sto telefonando bene. Ok, dai. Adesso sono a posto qua. E ciccia. No, stavo guardando sto pol, ma c'ho anche lo schema. Mi sa che si può aumentare anche di watt. Mi sa che lo porto a 10 watt pieni, così. Tanto non c'è bisogno di linealetto, non c'è bisogno di niente. Non c'è nulla attaccato. Pulito. La lasciamo così. Ah, va bene, questa è bella la modulazione. Va bene, tutte le modulazioni che c'hai vanno bene. Vanno bene, perché questa qua lo stesso è bella chiara. Sì, ma sono i microfoni, ma no, io ho microfoni buoni. Questo più 5 l'avevo comprato a Gigi Vulcano, aveva cambiato la capsula e il circuito di preamplificazione modificato, ne ho due così, poi c'ho il più 3, il tane più 3, il tane più 2, c'ho l'Expander 500, c'ho il... come si chiama? Vabbè, come lo metto comunque. Sono tutti i microfoni che spingono, dai, che vanno bene. Poi con la mia voce, figurati. Ti volevo chiedere, non è che c'è quello pare, il tane più 2, quello verde, ti ricordi? Quello con la retina. Quello verde, no, il tane più 2 è celeste, questo è il mio, è celeste, originale celeste. Poi quello manuale c'ha la retina bianca ed è celeste lo stesso. No, io ce l'avevo palmare, tane più 2, palmare, amplificato, ed era verde, tutta la carcassa verde. Si chiama, mi sembra, se non sbaglio, scusate, il tane più 2U. M più 2U quello è, sì, ha ragione Riccardino, l'M più 2U quello è. Il manuale si chiama M, sempre della Turner, M più 2, mentre l'upero, mentre l'altro è l'M più 2 normale e celeste, è il colore del Turner più 2, Manuel, capito? Io c'avevo quello lì, quello che stava dicendo Riccardino, e ce l'avevo collegato alla Galaxy, cazzo, sia una bomba questo microfono. Va bene. Ciao Riccardino, questo è il quella radio uguale a quella che c'è tu, solo la tua è celeste e questa invece è nera. Vedi come va bene, gli ho detto a tuo padre di metterci un microfono come questo, le fai le connessioni, va bene anche un MB più 5 e dovrebbe uscire molto bene. Comunque ciao a tutti, ciao Claudio ed Emanuele. Ciao, buongiorno Riccardino. Riprendi Fabio, dai, che io mi metto a posto un po' di roba qua, poi devo provare anche l'Airbex, che devo fare una modifica anche lì devo fare una modifica veloce, perché sto facendo un adattatore per usare un microfono con tutte le radio, se no ogni volta mi tocca cambiare. E come ho fatto io, mi sono scelto uno standard e posso cambiare i microfoni che voglio. Benvenuto Riccardino, come stai? Bene, ciao Fabio, non ti avevo sentito ancora. Buongiorno anche a te, a tutti gli altri se mi sto dimenticando qualcuno. Già sto bene, ero un po' in ascolto, ho acceso adesso, stavo spolverando un po' di apparati. Caffa, ti ricordo anche se Luca, the best of the monte, l'uomo del monte, Luca. Comunque ciao Riccardino, ben sentito, dai. Manuel, ma tu mi senti? Sì, Fabio. Figa, da questa cosa. Non ti ho citato perché pensavo tu non mi sentissi. Ho alzato il volume dell'altro apparato, che è più sensibile in ricezione, e finalmente ti sento. Che figata. Ma chi sei, Fabio Masse? Gaffa di Rogero. Ma in casa non sei, Fabio. Comunque ti ascolto. Sì, ti ascolto anch'io. Aspetta che ti faccio anche un controllino veloce. Trova a fare un passaggio appena lungo, un po' muto, un po' parlando. Prova così. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E così adesso lo lascio muto, vedo un po'. A te Fabio. Scappa, anche se so Santiago 4 con picchi di 5, la radio 3 è abbastanza chiara, ti sento bene, c'è un po' di rumore di fondo per dire il segnale con la mia divina antenna, però cavolo, se non stai il QRM a 1000 ti sento benissimo. Ma tu la stai usando l'antenna di macchina? Scappa, la Sirio Turbo 2001, centro ringhiera. E ti sento bene Fabio, ma in casa nasci tu? già a 2 ore, però devi pensare che sto puntando neanche verso Montevientino, sto puntando verso che parte? Verso Prinzella, perciò tutta la città è chiusa, capito? Perfetto, no, ti ascolto bene. Buon ricordi. Ehi, Emanuele, anche oggi, meno male, ti ascolto bene, se no quelle volte in cui c'era la propagazione, vabbè che siamo vicini e non ti ascoltavo, come ho detto siamo vicini, meno male oggi non è molto trafficata come dire propagazione QRM. Lo so Riccardo, e poi anche il QRM la sera è si alza un po'. Comunque già a te ti ascolto bene, anche se c'è il QRM ti ascoltavo sempre bene, siamo abbastanza vicini. Vai Fabio per Riccardino. Kappa, dai, bene che ci si riesce a sentire in qualche modo. Un po' arrangiarsi, io quando riuscirò a togliere questo palo pericolante dal tetto, la metterò sul tetto l'antenna. Mi sta ridendo, e lì a fianco la porta che mi guarda, ogni volta che entro, che esco, e lì in scatola che mi guarda, che vuole aria, capito? E non riesco a metterla su, anche oggi si poteva fare, però se hai visto il cielo abbiamo abbandonato. Ascolta, ti volevo chiedere, ma quella roba fatta gliela avevi a Torino? Guarda, ce l'ho qui davanti, che sto cercando di rifinirla. Mi è arrivato un pezzo tutto ieri e ieri notte l'ho montato. Adesso sto pulendo un pochino la scheda. C'è la mia tipa regolatore che ho in mano, in questo momento già tolto, e non posso continuare. Ho bisogno del regolatore, poi c'è da fare una modifica per l'alimentazione, escludere l'alimentatore suo, del tutto. E niente, una volta fatto questo vediamo un attimino se si riesce a mettere a posto la modulazione, che era un po' stramba, o se si mette a posto da sola, perché questo regolatore fa danno, disturba tutto, capito? Purtroppo è un apparecchio che è nato male, è destinato a rompersi di nuovo, soprattutto se non gli fai alcune cosettine e se non usi un alimentatore esterno. Oh Fabio! Stappati, capito? Scusate un attimo, vado a prendere il telefono che ti mando una foto. Ma sono qui, c'è anche il telefono a fianco. Capito, Manuel? Sì, affa, comunque ti ripeto, ve l'ho detto anche a Torino, ci hanno messo troppe mani che non sapevano dove metterle, perché la radio è stata comprata, arrivata così già difettata e poi è stata portata da uno a farla controllare, l'ha anche peggiorata, pensate. Eh sì, perché si cerca di fare qualcosa di meglio, però la verità è che è una radio che è tutta strana, cioè è nata male, è nata con dei problemi, perciò già rischi di romperla ogni volta che è più importante, rischi di fare danno, ma anche in ascolto, si scalda un pochino a seconda del momento, a volte anche tenendo alto il volume dell'altoparlante la puoi rompere. E poi in più, se ci sono delle modifiche, perché sembra un bel apparecchio e cerchi magari di alzargli anche solo 2, 3, 4 watt, vai certo che la facci in niente. Uno che si trova davanti a una radio così, magari già toccata, già modificata, eccetera, non stava per battere la testa, capito? Io sono partito proprio da capo, da zero, dal filo della corrente sono partito a controllare, capito? Me lo posso immaginare. Io infatti te la volevo dare, gliel'ho detto a Torino, e guarda là, e volevo cambiare le luci, le lampadine le volevo far cambiare, azzurre. Cosa dici? Riesci a metterle? Sì, mettere le lampadine non è un problema. Si trovano quelle che ci sono, al posto di mettere altre lampadine incandescenza, si mettono dei LED, si recupera l'alimentazione in un certo modo e va, non ci sono problemi. Però quella radio lì che è uguale a questa, quanto ho capito c'è da fare due cosine, se no ti si scoppia in mano, Emanuele, c'è poco da fare. Io sono sicuro che non ti dura, capito? Ma è quella che sto ascoltando? No, quella è spenta adesso. È spenta. Questa è un'altra radio. Brecco. Avanti Fabrizio. Ciao Riccardino, datemi un controllo Riccardi, questa è la radio tua, datemi un controllo che fra un po' se tutto va bene la chiudo. Fabri, una roba, sì. Basta Fabri, ciao, una bomba. Roma e sta arrivando 9.40. Il segnale, vabbè, è normale il segnale, però era vedere un attimino la modulazione se andava bene, perché quel problema sicuramente l'ho risolto, anche quello che andava in clip, la radio, e adesso se va bene la chiudo, te la do diretta oppure la tengo io un pochettino qua in utilizzo e poi così rifacciamo il cambio, ti do la tua e mi restituisci quell'altra. E per il filtro, Riccardi, quando se dovesse andare, perché anche adesso richiudendola non c'era audio, vado un altro filettino di saldato, si è sui, perché è così, se quando ogni volta li metti in mano rischi che qualche filettino su questa radio, sempre, ne ho fatto tantissimo, una volta chiusa non dovrebbe più dare problemi. Quello ti volevo dire, Rica, niente, così poi la provi, ti ho messo quella modifica per il filtro, filtro M non è A, però gli ho fatto un ponticello dove tu vai, te l'avevo spiegato quella cosa là, quindi se lo vuoi usare senza filtro come è nata la radio, lo usi così, se poi vuoi ascoltare meglio, ascolti in quell'altra maniera, con quell'interruttorino, quando poi comprerai il filtro, glielo montiamo direttamente e quindi fa tutto da sola, da capire e tenerla usandola sotto controllo, perché ho riallineato un pochettino anche tipo, c'è un po' tutto, ho dato una ricontrollatina e la radio a posto, però sono sicuro una volta c'è qui dovrebbe andare, però sapendo che questa radio, ti ho già spiegato, vedi tutti i componenti, condensatori, quando la dobbiamo usare un po', se la usi 20 giorni ma non ti dà problemi, a quel punto puoi decidere di investire su un filtro, su un altro, sul filtro M, capito, come quella è la mia, così non hai problemi, però per il momento la usi così che va benissimo. Riprendi Riccardino, ciao un po' a tutti e fai girare tu. No, va bene Fabri, sì, mi fai sapere comunque, per il controllo alla fine, vabbè, te la sul segnale, la radio mi piace una bomba, come ha detto Emanuele. Concordi Fabio, così fai, dai un controllo anche tu a Fabri. Grazie, abbassa il volume. Sì Fabri, pulita chiara, un po' cupa ma sarà il microfono. Che microfono stai usando? Vabbè, questa è radio MC60, poi provo a essere anche come stai ascoltando, questa è radio. Questa è qua, alle volte non lo so, vedi tu, comunque questa è l'MC60. Sì, vabbè, ricca di bassi con meno acuti, aperta sotto e un po' chiusa sopra, capito? Non sembra la voce reale, però è la voce presente, grave, ma va benissimo, secondo me è perfetta. E le chiamano da combattimento, le fanno le serraglio per combattere, non ho ancora capito, perché poi vabbè, adesso quindi c'è il processore inserito, perché l'altra volta aveva problemi, quindi gli avevo ricontrollato un po' lì, era un po' toccato sul processore e quindi va bene. Dai, adesso io vi lascio, Riccardo, così la chiudo e vediamo un attimino non so se, vabbè dai, la tengo io un po' sotto controllo, ma so già che va bene, quasi quasi te la faccio avere, così la tolgo da qua che non c'ho più spazio, che devo mettere sul banco quell'altro 4.40, va bene, dai, riprendi e rimango in ascolto che la chiudo. Sì, va bene, mi farai sapere come stanno, se stai dando problemi. Mamma mia, l'ho vista questa radio che stai per chiudere e serve una saldatura falsa, poi ti rimane un filo in mano. Ho visto quanto ci hai lavorato su quella radio. E se a contabilizzare il tempo che lo fai per passione, perché è per te tardaggine, la sassari come dicono, imbuligata l'avresti, però io già lo sai che restaurò i mezzi, quindi diventa una cosa di testardaggine. Va bene, dai, l'importante è che vada, e poi mi butto sull'altro 4.40 che sta facendo impazzire non riesco a far oscillare un cavolo, non riesco a capire, adesso ho un dubbio, dai, però mi devo immergere anche in quella e via, ci sbatterò la testa, dai. Va bene, dai, riprendi e poi fai girare, io chiudo e poi faccio l'ultimo passaggio quando è chiusa e così la metto via. Ok, va bene, come detto mi farei sapere come sta andando e volevo chiedere a Fabio cosa ne pensi. Bello, molto bello, sia la prima che la seconda foto, molto, molto bella, mi piace molto. Aspetta che c'è la seconda, adesso mi sta prendendo voglia di andare in cantina, perché dalla seconda foto ci ho portato anch'io. Però era un pezzo di un aereo di guerra della seconda guerra mondiale, ma tutte le immagini che uso quello per parlare. E poi mi ha dato questo microfono per lui, perché è un attacco, non ha 4 pin, ma fa 5 pin strani, ed è l'unico che ho qui in stazione e non posso usarne altri. Dovrei farmi un adattatore, una cosa del genere. Si fa una stazione con uno spinotto come quello che vedi nella stazione, e poi uno spinotto, si cambia lo spinotto anche a questo, si mette uno spinotto normale, si cerca una configurazione, così ha la possibilità di utilizzare vari microfoni nei vari apparecchi, e anche di usare questo, che è molto carino, ma veramente carino, magari per gli apparecchi che è già caduto. Poi fino a bella cosa. Però bello, bello, bello, un bel pezzo. Secondo me venduto questo si vale più di qualche picciolino, ma non è come vendere P4, no? Ma infatti secondo me da quando l'ho comprato ci valeva solo il microfono quel prezzo, perché per dirti, se vai a cercare questo microfono su tutto l'internet, non ne trovi, non ce n'è un altro simile. Sì, molto particolare. Qui ripeto, mi sta facendo venire questa voglia di andare giù cantina a frugare. Quel microfono è stato su un caccia della seconda guerra mondiale. Proprio voglia di toglierlo via, di toglierlo fuori, dargli una pulita. Ci penso ogni tanto, però non ci vado, qua e là. Adesso scendo e lo prendo. Maledetto, chissà dove si è infilato in cantina. Ehi, Ada, leggi l'altro messaggio che ti ho mandato. Ah, tutto, una e l'altra. Cavolo. Prestaccio, Ma quanti ne ha canali questa? Di 3? No, questa è per il mercato tedesco. Questa ha 16 canali e solo AM. Però la cosa bella è che funziona ancora l'orologio, perché c'erano quelli che l'orologio si scassava, invece questo funziona ancora e basta. Come ho detto, solo 16 canali in modulazione AM. E basta. Perché me l'hanno detto che nel mercato tedesco facevano solo i 16 canali, bla bla bla. Mi ha capo, io sono confissato, per i canali ne voglio 40. Ne 80, ne 120, che non me ne ha fatto nulla. 40, voglio i 40 canali. Però è molto bella. Guarda, se fosse 40 canali, mi verrebbe un po' la colina. Figa, troppo toga. Poi lo uso a palette, così. Io nella stazione c'è quello digitale che lampeggia a LED. L'avevi vista la mia, è presente, no? Sì, me la ricordo, se posso anche andare a riguardarmela, così non c'è problema. Cappa, la storia più o meno quella. Questa c'è anche le bande laterali. No, per quel prezzo cosa volevi? Anche il full option al 240 canali. No, è modulazione AM, 16 canali, 2 watt e mezzo di uscita. Ah, carina, ma anche 2 watt e mezzo di antenna non sono male, non sono niente male. 2 watt e mezzo con la tua posizione, la tua antenna, secondo me è bella per tutto. Magari un pochettino più basso di quello che sta arrivando qua, però vai bene, va bene. Ma la stavi provando con Babbo quando è ieri? Sì, la stavo facendo girare e mi hanno detto che va bene questa modulazione. Aspetta che ve la faccio sentire com'è. Sì, a casa. Emanuele, che abbiamo parcheggiato, ci sei ancora Emanuele? No, non c'è, vabbè, sentiamo lo stesso. Attenzione, canali 6, qualcuno? Capo Riccardino, come mi dicevi, grande o... Questo speaker non sta già affidante, però questo abbiamo 7 radio 5. Bene, bene, la voce è un po' compressa, un po' diversa, meno professional dell'altro, però... Insomma, secondo me è una buona modulazione, cambiando microfono e magari usando quello su apparecchi più performanti con il modulatore riesci a trovare combinazioni interessanti, capito? Vabbè, questo TCK. Ma secondo me con il microfono TCK questa farà prese bene. E poi quel microfono lì lo puoi utilizzare con altri apparecchi che hanno già la radio alta di loro, capito? Perciò arrivi forte comunque. Ci vuole il microfono TCK in questo apparecchio. Fai due regolazioni. Non hai mix gain, vero? No, questo non ce l'hai. La metterò con un filo più avanzato, a 4 manopole, a 5 manopole, e ho preso tutti i denti. Io non ho il mix gain, infatti ne ho solo 4 manopole. Però, posso passare tutto, devo provare a mettere le denti. Vuoi provare a mettere? No, il flanker, per l'attivazione dei rumori. Ah, vuoi mettere il noise blanker? Guarda un po' se rimango comunque brillante, se rimango abbastanza alto, 1, 2, 3, fai la prova, mettilo, toglilo, mettilo, canta molto. Certo, non è affiscato, Riccardo, mi stai avvicinando un pochettino di più al microfono. Sì, come ho detto, sta andando bene anche io. Bene, bene. Sì, dai, è sicuramente un apparecchio serio. Avrà i suoi limiti, però rimane un apparecchio serio. Devo lasciarti per carica batterie. Ci vediamo dopo? Sì, dai, ci vediamo dopo. Fabio, buona carica quando la fai. E avanti, Emanuele, se mi ascolti. Grazie Emanuele, boh, forse si è nato uno sforzato. Va bene Riccardo, buona carica anche a te secondo la farai. Bianco, rimango in bianco anzi, però la faccio correre tipo di freno. A dopo. Come ho detto, ciao Fabio e... Volevo chiedere un controllo rispetto alla radio che stavo usando prima a questa. Questa è più alta, anche il segnale è basso. Perché? Cosa hai fatto? Hai toccato il microfono? No, era per chiedertelo perché... No, adesso sto usando sempre la stessa, quello che ti ho mandato la foto. E volevo chiedere se il segnale cambiava di molto da 8 watt a 2 watt e mezzo. Quanto è? Da 1 watt a 2 watt e mezzo hai fatto? Adesso sto usando 2 watt e mezzo. K, e prima quanto ne stavi usando? 1. Cambia, arrivi più forte, più pulita, penso che anche il segnale si sia un po' alzato, anche se non ho avuto modo di paragonarlo, però ti sento meglio. Cappa, va bene, anche ora se ne ascolto, allora se non rientra qualcuno, se no se non rientra nessuno vado a mangiare. Non mangiare, se no cresce troppo in fretta. Ah, quindi mi ascolti anche tu, ciao Giulio. Ciao Giulio. Ciao, Riccardo. Ascolta, dimmi una cosa, io sto usando in questo momento un piccolissimo baracchino, non so se mi dà nemmeno 2 watt forse, com'è il segnale lì da te? Da questa parte Santiago 95 radio, radio 5 forse, però la modulazione è bella, sembra sì, quello sì, vabbè, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso a parte. Va bene, dai, ti ringrazio. Vai a mangiare, vai. Giulio! Oh, ciao Cinco, vabbè. Ciao Gio, ben sentito, buongiorno. Aspetta un attimo che qua sono ingrigliolato il gioco con i confidi. Ecco qua, avanti Cinco. E allora Giù, tutto a posto, è niente in ordine. Cinco? Sì. Sì, ci sono, dai. Ero ingrigliolato coi fili. Aspetta che sto sistemando qua, se non mi strangoleggio. Oh yeah. Vabbè dai, riprendi tu un attimo. Sì, andava allora, dai. Anda bene, bene. Emanuele, tu mi ascolti? Sì, Riccardo, ti ascolto. Bene, allora, con 2 volte e mezzo arrivo la ti ascolto benissimo Riccardo, tranquillo. Va benissimo. Vai Giulio. Ok, anch'io sto usando pochissimi watt. Nemmeno 2 watt. Ma comunque andiamo bene. Quando mi sentite già va bene lo stesso. E beh, Ginko, cosa mi sei combinendo? Dico già combinendo. A casa. Cosa rendi? E gioco a casa. E tu dove sei? Nella tua cortina a Cari Ponti. Sì, a casa sono, sì. E beh, certo. Sto con ancora i pantaloni gotti, ti puoi immaginare. Non sono uscito per niente stamattina. E io neanche, non sono uscito a lungo. Sto facendo delle commissioni qua in casa. E niente, non sono uscito a lungo neanche io. E infatti, e tu vuoi andare intanto, oh, yeah. Tanto devo andare in giro, devo andare con la mascherina. Ti parliamo tutti quanti a carrasciare, parliamo. Mascherina, guanti, diremo lì, non solo la mascherina, no. Diremo le pure i guanti. Questo è pure vero. Eppure, io la saluta, guarda, la di... Non mi metto, la di 10, mi pare, sono andato, no, la di 9, sono andato a fare una visita, no, all'ospedale. Ed ero con i guanti, mi ha detto no, li tolgo i guanti che è più igienico senza i guanti. Naturalmente dice deve lavarsi continuamente le mani, magari disinfettarli col gel e queste cose così. Dice che è più igienico senza guanti. Ma tu, boh. Comunque quando sono uscito me l'ha ritrovato a punire i guanti da voi. Sì, l'altra volta lo stesso anche io. Mi sono curato per salirci, mi sono dimenticato dei guanti. E la mascherina ve la vivo. Cazzo non me l'hanno inventata in buccia, ha detto, ma ha aspettato un'ora, ha già fatto un'ora di coda e non mi vogliono far entrare, sono entrato in prepotenza. Cazzo no, adesso entro, devo pagare delle cose, io non posso stare a fare un'altra ora la fila dopo. Infatti è così, ma fate visto che ti dice una cosa che mi dice un'altra, non si comprende che è la cosa che effettivamente si deve fare, ma comunque. E ci ha detto sì, Riccardino è andato a mangiare, Riccardino, sì, è andato a mangiare, si vede che ha fame in questo momento, e allora è andato a pranzare. Sì, ma è così, tu lo prendevi, io appena che sto entrato ho fatto no, tocca i guanti perché è più igienico senza i guanti, boh, gli ho fatto, ma se io faccio di guanti non tocco niente, no, che poi tra l'altro anche i guanti li avevo igienizzati col gel prima, no? Poi sono entrato dentro e mi ha detto no, tocca i guanti, ma li ho igienizzati, sì, tocca i guanti perché sono, è più igienico senza guanti. Interessante, mi metta questo dalle mani, e ha detto no, sì, vabbè, metto il gel, d'accordo. Però io non sono convinto come ti dice niente, che è più igienico senza guanti. Io dico che è più igienico con i guanti, perché tu i guanti te li igienizzi e poi cosa fai? Te ne ricavi e ti puoi anche igienizzare le mani ad avanti. Se che è più igienico di così, boh, cosa vuoi ti dica? Caravo cotte, caravo cruda, mi fa vita. È così, giù, è così. Senza che andano fine, mi sembra che a giugno dice che si può circolare senza mascherine e senza guanti. È incredibile, non se ne comprende l'accidente. Da voi basta la macchina di calcio quando hanno fatto una strada alle mani e vedo tutto Napoli, tutti quanti brinchendo e vende invece, ma che ha vinto uno Napoli, no? Tutti quanti senza mascherina, senza guanti, senza niente, fai due comprendere niente. E vabbè, ragazzi, va. Ti volevo chiedere, Giù, lui come mi ascolti lì a Riponti? Io ti ascolto con un segnale di 7 e mezzo, la radio è buona, molto buona, oggi la frequenza è anche pulita e non c'è QRM, non c'è niente, ma l'antenna non l'hai piazzata, cosa hai fatto? L'hai migliorato comunque di molto, soprattutto il radio. Ma l'antenna si è finita, l'ho alzata un pochettino con un pezzo di baro, cosa devo fare? Ma... è importante che mi ascolti, dai, che la radio è 5. Scusa, ero di pasta, non vi ho informato. Ok, sì, la radio 5 oggi, la radio 5 è bella, abbastanza chiara, no? Non c'è problema. Avanti Riccardo, cosa dicevi? Ti sei allontanato? Io pensavo che ero andato a pranzare. No, sono qui.